Al-Ma'arij. Le vie dell'ascesa. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Un tale ha chiesto un castigo immediato. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Per i miscredenti nessuno potrà impedirlo. Min Allahi dhil ma'arij. Poiché proviene da Allah, il Signore delle vie dell'ascesa. Ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Gli angeli e lo spirito ascendono a lui in un giorno la cui durata è di 50.000 anni. Fasbir sabran jamila. Pazienta dunque, di bella pazienza. Innahum yarawnahu ba'ida. Essi lo considerano come fosse lontano. Wa narahu qariba. Mentre noi lo vediamo vicino. Yawma takunu as-sama'u kal-muhl. Il giorno in cui il cielo sarà come metallo fuso e le montagne come fiocchi di lana nessun amico sollecito chiederà dell'amico. Yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bibani. Anche se sarà dato loro di vedersi. Il malvagio vorrebbe riscattarsi dal castigo di quel giorno, offrendo i suoi figli wa sahibatihi wa akhi, la sua sposa e suo fratello, wa fasilatihi allati tu'wi, e la sua gente che l'ospitava. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. E tutto quel che è sulla terra, ogni cosa che potesse salvarlo. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى. Niente lo salverà. Sarà una fiammata. Nazza'atan lish-shawa, a strappargli brutalmente la pelle del cranio. Tad'u man adbara wa tawalla, essa chiamerà chi avrà volto le spalle e se ne sarà andato. Wa jama'a fa'a, chi accumulava e tesaurizzava. Innal insana khuliqa halu'a. In verità l'uomo è stato creato instabile. Idha massahu ash-sharru jazu'a. Prostrato quando lo coglie sventura. Wa idha massahu al-khayru manu'a. Arrogante nel benessere. Illa al-musallin, eccetto coloro che eseguono l'orazione. Alladhina hum ala salatihim daimun, e sono costanti nella loro orazione. Walladhina fi amwalihim haqq, e sui cui beni c'è un riconosciuto diritto per il mendicante e diseredato. والذين يصدقون بيوم الدين. Coloro che attestano la verità del giorno del giudizio. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. E coloro che temono il castigo del loro Signore. إن عذاب ربهم غير مأمون. Che in verità il castigo del loro Signore non è cosa da cui si possa trovare riparo. والذين هم لفروجهم حافظون. E che si mantengono casti. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Eccetto che con le loro spose o con le schiave che possiedono. E in questo non sono biasimevoli. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Mentre coloro che desiderano altro sono i trasgressori. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Coloro che rispettano ciò che è loro stato affidato e i loro impegni. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Che rendono testimonianza sincera. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. E hanno cura della loro razione. أولئك في جنات مكرمون. Costoro saranno onorati nei giardini. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. Cos'hanno mai da affrettarsi verso di te coloro che non credono? عن اليمين وعن الشمال عزين. Venendo in gruppi da destra e da sinistra. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. Ciascuno di loro desidera che lo si lascia entrare nel giardino della delizia? كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. No, mai. In vero li creammo di quello che già sanno. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. Lo giuro per il Signore degli Orienti e degli Occidenti. In verità abbiamo il potere. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. Di sostituirli con altri migliori di loro, e nessuno potrebbe precederci. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Lascia dunque che disputino e giochino finché non incontreranno il giorno che è stato loro promesso. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. Il giorno in cui usciranno dalle tombe in fretta, come se corressero verso pietre drizzate. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Con gli sguardi umili, coperti di vergogna. Questo è il giorno che è stato loro promesso.